Rassegna Stampa Europa. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Fabio Cantadore in regia questa mattina per il consueto appuntamento con la Rassegna Stampa Europea. Alcuni articoli, partendo dalla decisione della Corte di Giustizia Europea, che ha dichiarato questa settimana invalida la direttiva UE per la conservazione dei dati, una direttiva che di fatto obbliga anche gli operatori di telefonia a conservare alcuni dati appunto personali degli utenti. Le implicazioni di questa decisione sono spiegate questa settimana dal Sole 24 Ore. Invece il web magazine ungherese Irado affronta il tema delle elezioni a Budapest lo scorso fine settimana e lo fa dall'ottica dell'osservatore OXE ad Aussilva. Lo spagnolo Il Mundo sottolinea invece un'altra storia completamente diversa di questa Europa, e cioè l'assenza di Vladimir Putin, naturalmente presidente russo, alla festa dei 70 anni dell'ex cancelliere Gerhard Schröder. Secondo il quotidiano, la questione è strettamente legata alla posizione assunta dall'Unione Europea nei confronti del Cremlino alla luce della crisi in Crimea, situazione che ha visto peraltro Schröder scegliere, diciamo, il campo di Mosca. Ma allora veniamo nei dettagli. La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato dunque invalida la direttiva. La direttiva, entra nei dettagli l'articolo del Sole 24 Ore, non permette l'accesso e la conservazione di dati relativi ai contenuti delle comunicazioni, cosa che è consentita solo in caso di mandato specifico. Quindi i contenuti no, i dati però generali delle comunicazioni sì. I dati soggetti alla direttiva devono essere conservati per un periodo massimo di 2 anni. Nonostante la distinzione tra dati personali e non riconosciuta dalla direttiva, la Corte ritiene però che le informazioni raccolte, se opportunamente incrociate, consentono facilmente l'identificazione degli utenti in violazione delle regole UE sulla privacy dei cittadini. La Corte dunque condanna l'intero impianto della direttiva, sottolineando che non prevede differenziazioni o eccezioni nella raccolta dei dati consentivi, né pone limiti contro eventuali abusi dei dati e sui dati stessi. Dicevamo dell'Ungheria dunque nei titoli. Il Hidaro, appunto, website ungherese, parla delle elezioni di domenica scorsa. L'articolo di fatto si concentra sulle dichiarazioni di Adao Silva, osservatore portoghese delegato dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, quindi l'OSCE, che sostanzialmente dice: le elezioni sono state trasparenti e hanno offerto ai votanti, dunque agli elettori, un contesto di voto assolutamente soddisfacente. Quello che però Adao Silva invece lamenta è che la preparazione per il voto non ha di fatto condizionato l'elettorato, che ha avuto grandi difficoltà a creare una distinzione tra il partito Fidesz, di fatto il partito della maggioranza del presidente, e poi il partito vincente, e il ruolo dello Stato. Insomma, in particolare l'articolo cita poi la reazione di Jennifer Hilton, capomissione dell'OSCE, che dice che le elezioni si sono svolte in un clima calmo e positivo, anche se, aggiunge, le minoranze, e in particolare quelle della comunità Rom, sono stati dei veri e propri fantasmi nel corso di tutta la procedura. Grecia invece, Katimerini, un giornale greco che citiamo spesso. Cosa succede dopo la crisi? Bene, come sapete, ancora ieri giornata importante con Angela Merkel in visita ad Atene. Questa è la settimana che ha visto la Grecia tornare di fatto sul mercato dei titoli di Stato. Insomma, un momento di grandi passaggi e naturalmente un momento che non ha allontanato quella che è la grande crisi del paese, non solo, e il conflitto appunto nei confronti delle istituzioni comunitarie in generale, in particolare la cosiddetta Troica. È interessante l'articolo di Katimerini perché in realtà sposta, potrei dire per una volta, un po' l'attenzione al baricentro. Katimerini dice bisogna fare molta attenzione alla retorica distorsiva che è stata coltivata negli ultimi anni in Grecia. La retorica distorsiva, spiega l'articolo, è esattamente quella di dare tutte le colpe in primo luogo alla Germania e in secondo luogo all'Unione Europea. I tedeschi, scrive nell'articolo appunto l'autore, sono stati regolarmente in questi tempi chiamati unni e seguaci di Adolf Hitler e naturalmente tutto questo ha rafforzato quello che è può essere definito solamente un inaccettabile cliché. Attenzione, conclude il collega greco, che sembra volere chiarire un punto. Il problema non è tanto parlare male dei tedeschi, ma è che in questo modo si allontana completamente la responsabilità dalle condizioni, dalle persone e dalle circostanze che hanno portato la Grecia in una profondissima crisi. Insomma, dice, questa retorica naturalmente attecchisce con facilità tra ignoranti, tra persone magari di bassa cultura o chi invece decisamente per interessi politici, culturali, vuole vedere le cose in questi termini. Ma quello che è veramente peggio di questa circostanza, di questa tendenza, è che questo impedisce a noi greci o meglio giustifica a noi greci quando non vogliamo imparare nessuna lezione dalla storia recente di questi anni. Insomma, come dire, parliamo male dei tedeschi, dice il collega greco, ma ricordiamoci che se siamo finiti in questa situazione, dobbiamo prima di tutto rivolgerci a noi stessi. E ancora, vi dicevo del compleanno, il compleanno dell'ex cancelliere Gerhard Schröder, 70 anni, e del fatto che in questa festa, questa importante festa di uomo politico ancora molto attivo sulla scena internazionale, non sia stato invitato Vladimir Putin. Tutto questo peraltro raccontato dallo spagnolo El Mundo. Allora, secondo i media tedeschi, scrive Il Mundo, Schröder è sempre stato accanto ai russi, anche nel caso della Crimea. L'assenza di Putin quest'anno potrebbe essere piuttosto collegata all'affermazione di quest'ultimo, cioè del presidente russo, quando ha detto che la responsabilità dei fatti in Ucraina e Crimea in realtà devono essere attribuiti proprio all'Unione Europea. Ecco, forse su questo punto, come dire, è andato oltre, almeno per quelli che sono i rapporti interni ed esterni della persona Gerhard Schröder. Schröder, tra l'altro, lo ricordiamo, è presidente di una gas venture di fatto che russo-tedesca, ma che è controllata come azionista di maggioranza proprio dal gigante del gas russo Gazprom. Ancora parliamo di posizioni rispetto alla permanenza nell'Unione Europea, al dibattito euroscettico, citando un articolo britannico, The Times. Il titolo è Brexit would not cost jobs. Allora, l'ipotesi di uscire con futuro eventuale referendum dall'Unione Europea è molto dibattuto ovviamente dalla stampa britannica. In questo articolo parte dall'affermazione di Nigel Lawson, ex cancelliere dello scacchiere, che di Margaret Thatcher, secondo il quale in realtà il pericolo non sussiste. Cioè, non è vero, come dice il vice primo ministro Nick Clegg, che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea costerebbe 3 milioni di posti di lavoro. Perché, dice Nigel Lawson, in realtà il Regno Unito potrebbe perfettamente realizzare all'indomani di questa eventuale decisione un interessante e proficuo accordo bilaterale di free trade, quindi di libero scambio, proprio con l'Unione Europea. Un punto di vista importante, quello di Lawson, una figura naturalmente con un'autorità e una storia alle spalle molto importante, che avviene su un giornale importante, il che ci ricorda e ci dà un po' la misura della portata del dibattito che coinvolge e che probabilmente coinvolgerà ancora di più il Regno Unito dopo le elezioni del 25 maggio. Un flash in conclusione, Le Soir, quindi quotidiano francofono del Belgio, il titolo è Bruxelles deve fare di più per l'Europa. In realtà è un articolo un po' bizzarro, nel senso che sostiene che la capitale europea, Bruxelles, è di fatto capitale europea dal 1958, sempre meno capitale belga, sempre più capitale europea, non fa abbastanza per costruire la sua immagine appunto di centro dell'Europa. E allora non abbiamo tempo per leggerlo, ma insomma una serie di proposte per lavorare ancora di più sulla capitale belga perché sia sempre di più la capitale dell'Unione. una città che peraltro, come sappiamo, come ci raccontano anche i nostri corrispondenti e magari visitandola, ha davvero cambiato faccia proprio grazie o quantomeno a causa dell'essere al centro del sistema europeo. Bene, con questo abbiamo concluso per la nostra rassegna stampa internazionale, che naturalmente abbiamo come sempre realizzato in collaborazione con i colleghi della rete Euronet Plus. Un saluto a tutti voi, ci risentiamo la prossima settimana. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.